vediamo fuori, non mi seccare, non ho parole, non ho parole, non vorrei stare. Senti, mio amico, può andarmi dico, ma che t'ho fatto, che vuoi lasciarmi? Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma che sei matto, ma che sei matto, matto, matto, fu per burlar. E io non burlo, e io non burlo, burlo, burlo, matto, io a te. Io non fome, ma senti, mio amico, andarmi dico. Ma che sei matto, che sei matto, che sei matto, che sei matto, matto, matto, matto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Non vorrei stare. Ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, matto, matto, matto. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, voglio andar, sì. Si voglio andare, io non ho paura, non ho paura, non vorrei stare. Poi che sei fatto, poi che sei fatto, la voglio andare, o per volare, o per volare, o per volare. Leporello, signore, vien qua, facciamo pace, prendi. Cosa? Quattro doppie. Oh, sentite, per questa volta ancora la cerimonia accetto. Ma non vi ci appezzate, non credete di sedurre i miei pari come le donne, a forza di danari. Non parliam più di ciò, ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico. Pur che lasciam le donne. Lasciar le donne? Pazzo, lasciar le donne. Sai che se son per me necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro. E avete cuore di ingannarle poi tutte? È tutto amore, chi ha una sola è fedele verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno. Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste? Odi! Vedesti tu la cameriera di Donna Elvira? Io? No. Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Or io con lei vo tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito. E perché non potreste presentarvi col vostro? Han poco credito con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati via! Signore, per più ragioni! Finiscila, non soffro opposizioni!